Dico anche io due parole, un attimo di introduzione, no? Con le note del maestro Galli abbiamo appunto avuto un assaggio di quella che sarà la serata che ci aspetta oggi in sua compagnia e soprattutto anche in compagnia della professoressa Ludmilla Rotari, che è qui con noi e che suonerà il violino. Grazie. È un'esperienza nuova quella che viene presentata questa sera qui al Trevi, grazie anche alla collaborazione col CESFOR, e quindi potremo rivedere alcuni spezzoni di film di registi famosi che fanno parte della storia della filmografia, che è accessibile anche qui presso il CAB, ma soprattutto poi ci sarà l'esperienza inusuale di sentire dal vivo la musica e la rimusicazione di alcuni brani. E verranno appunto svolti anche brani, ma vi spiegherà poi il maestro Galli quali sono i compositori che verranno musicati questa sera. Vi anticipo che a questo appuntamento seguiranno degli appuntamenti successivi il 18 di novembre e il 2 dicembre, quindi avremo anche un mese di dicembre dedicato alla musica, perché oltre agli appuntamenti del CESFOR ci sarà anche l'Istituto Musicale Vivaldi che ci accompagnerà fino al premio Claudio Augusta dal 9 al 15 di dicembre. Ecco, quindi ci avviciniamo insomma a questo periodo natalizio con un avvento molto lungo che inizia in novembre ed è all'insegna della musica, per cui vi ringrazio tantissimo della vostra disponibilità. Ricordo che la biblioteca ha dei libri anche sul tema della rimusicazione e soprattutto ha un bel carnet ricco di appuntamenti per il mese di novembre e di dicembre. Ogni martedì e mercoledì noi organizziamo degli incontri. Lascio subito la parola adesso ai nostri ospiti, che ringrazio, e arrivederci poi anche nelle prossime serate del 18 e del 2 dicembre. Grazie. Allora, rinnovo di nuovo, nuovamente un buonasera e un benvenuti a tutti, da parte mia e anche da parte di Ludmila. E questa sera non vuole essere una lezione sul cinema o su alcuni autori anche musicali in modo molto specifico, vuole essere una sorta di infarinatura su come è nato il concetto del sonoro e quindi delle colonne sonore, perché parlare di colonne sonore non si parla da subito nel cinema, chiaramente. Però è stata una necessità, per ovvi motivi. Si è partito col cinema muto, avete visto uno spezzone, ecco, da una sorta di best of Buster Keaton, cioè una serie di filmati tratti da uno dei più grandi registi della storia, perché noi pensiamo sempre a Buster Keaton come un comico, nient'altro. Invece è stato prima di tutto regista di se stesso, e tanto che è stato anche molto ammirato da un altro grandissimo regista che forse ha fatto molta più fortuna di lui, cioè Charlie Chaplin, regista e attore chiaramente, ma era un grande ammiratore di Buster Keaton. Infatti c'è anche un film dove hanno recitato insieme, era un film diretto da Chaplin, però alla fine Chaplin ha dichiarato proprio apertamente, anche in modo scherzoso, però il messaggio secondo me può arrivare abbastanza facilmente, che non avrebbe più fatto un film insieme a Buster Keaton perché gli rubava la scena. Eppure se voi guardate anche le espressioni, guardate l'espressione, adesso qua è molto sgranata l'immagine, ecco. Purtroppo i film dell'epoca poi ingranditi su uno schermo così non permettono di avere una linearità anche nei volti e anche nelle figure. Però Buster Keaton, se voi notate su internet o in qualsiasi occasione, su qualche libro, foto sue, l'espressione di Buster Keaton è sempre, sempre la stessa. Non sorride mai, non è mai imbronciato, è sempre la stessa espressione, eppure ha una comicità che è al di sopra probabilmente di tutte quelle dell'epoca, Chaplin compreso. Forse, ecco, Stan e Ollio hanno avuto una comicità che è stata anche al di sopra della sua, però lui intanto ha precorso i tempi. E è stato poi la regia sua che è estremamente geniale. Perché? Perché è riuscito a creare anche un principio di effetti speciali senza avere benché minimo mezzo per riprodurre dei veri effetti speciali. C'è la famosa scena del treno in cui sembra che lui vada a sbattere eppure invece è seduto davanti alla locomotiva, oppure la scena in cui gli cade una parete di un edificio ma lui è davanti alla porta, la porta rimane su dietro di lui e cade tutto il resto della parete. Però tutte queste sono delle mosse di una genialità estrema. Consideriamo che stiamo parlando della prima metà del Novecento, anzi un bel po' meno, sì, sempre nel Novecento, ma e per ovvi motivi, ecco, come dicevo prima, la colonna sonora non era ancora un concetto che era nella mente dei registi, probabilmente nella mente sì, ma dal punto di vista pratico era un po' non c'erano i mezzi per poter sincronizzare audio e video, per cui la necessità di voler mettere della musica che accompagnasse la scena cinematografica era evidente, questa necessità. Perché? Perché la musica, se studiata ad hoc per il tipo di visione che uno ha, aiuta molto ad accentuare gli episodi che uno sta osservando dentro nel film, nel cinema, nel film, scusate. E a questo a tutti i livelli, cioè già dall'inizio del Novecento fino ai giorni nostri. Provate magari a abbassare completamente il volume in guardando un film o che conoscete o un film che non conoscete, e provate poi a rivedere la stessa scena con il sottofondo musicale. È chiaro che ai giorni nostri il sonoro è totale, qui si parla addirittura di Dolby Surround, effetti di ogni genere, quindi è un po' difficile fare il paragone con questo tipo di film. Però provate, perché non c'è solo il sonoro della musica di sottofondo, c'è anche il sonoro dei dialoghi, delle persone che parlano. Qui il sonoro non è che non ci fosse, però, attenzione, molto spesso la situazione era simile a quella che avete notato prima. Adesso c'ero io al piano, ovviamente c'era un pianista, oppure addirittura quando si è arrivati anche ad avere mezzi economici maggiori, venivano utilizzate delle vere orchestrine, big band, stile jazzistico, piuttosto che orchestre con lo stile più classico o una via di mezzo, che molto spesso, quando soprattutto l'ensemble di strumenti era ridotto, improvvisavano. Questo brano che vi ho eseguito non era abbinato a questo film, assolutamente. Adesso vi farò sentire la colonna sonora di questo film, però era per darvi un'idea di come veniva utilizzata all'inizio il concetto del sottofondo musicale. Ovviamente il sonoro dei dialoghi non esisteva, però la necessità di utilizzare comunque della musica abbinata ai film c'era già negli anni 20, 30 e quant'altro, fino all'avvento del sonoro a tutti gli effetti, cioè dell'audio, sistema audio sincronizzato con il sistema video. Ok, ecco, l'utilizzo del pianoforte con questo genere musicale veniva proposto spesso per film di carattere comico, come questo, per esempio. Conoscete un po' tutti questo genere che io ho eseguito? Sapete più o meno di cosa stiamo parlando? Potete anche parlare, io non tendo a parlare e basta, mi piace anche molto interagire col pubblico, non abbiate paura di dire cose che non sono corrette, non ci mancherebbe. Qualcuno sa, a parte il titolo di questo brano che ho eseguito, ma proprio il genere musicale. Esattamente, il ragtime. Il ragtime per molti di voi magari il concetto di ragtime è un po' sconosciuto, però il ragtime è un precursore della musica jazz, come anche il blues. Il ragtime era praticamente quella musica che veniva eseguita spesso nei saloon con quei pianoforti scordati, ecco, addirittura nelle tastiere elettroniche, non nella mia, però in quelle un po' più sofisticate, cioè che non tendono anche a riprodurre suoni che non c'entrano nulla con quello del pianoforte, hanno all'interno il l'honky tonk piano, che sarebbe quel pianoforte lì che era scordato nei saloon, perché sicuramente nei saloon non è che i saloon non è che fossero dei caffè letterari, ecco, quindi non c'era la pretesa di avere della musica eseguita in silenzio, musica di alto livello, però senza togliere nulla al ragtime, che sono brani musicali magari simili, molto simili tra di loro, però hanno un livello sicuramente più alto rispetto ad altre musiche più popolari. Il ragtime era la musica eseguita, la famosa scritta "non sparate sul pianista", che tutti di voi conosceranno, almeno sentito, ecco. E vabbè, quella era una scritta più leggendaria, però quando ci sono i film western tendenti magari anche ad aspetti più di commedia, di comicità, spesso lo si vede il pianista che suona nel saloon con la scritta "non sparate", e la musica che suona generalmente è proprio il ragtime. Sì, sì, non sono così tanto dissonanti i ragtime, cioè paragonato alla musica jazz che è arrivata, diciamo, dagli anni 40 in avanti, perché prima il jazz che si conosceva era il Dixieland, che era il jazz, diciamo, il precursore vero e proprio della musica jazz, che era quello nato a New Orleans, assolutamente improvvisato, da gente non certo ricca, gente che nasceva sulla strada o nei locali scantinati di New Orleans, e suonava quasi per istinto, senza conoscere la musica nel senso teorico e tecnico del termine. E ragtime anche, però, tanto che probabilmente il ragtime di Scott Joplin, questo è uno di quelli, Scott Joplin è stato il più grande compositore di ragtime e anche il più noto, però i ragtime di Scott Joplin probabilmente non li ha scritti lui, li sono stati trascritti da chi li ascoltava. Perché pensate a Louis Armstrong, lo conoscete più o meno tutti, almeno di nome. Louis Armstrong non conosceva minimamente la musica scritta, cioè la lettura o la scrittura della musica, eppure esistono composizioni sue, ma non le ha scritte lui. Sono composizioni che lui ha eseguito improvvisandole, inventandole al momento, che sono state trascritte da altri, come la maggior parte dei casi parlando di musica jazz. Ok. Chiudiamo il discorso sul jazz. Adesso vi faccio sentire il sonoro abbinato a questo mix di spezzoni comici di Buster Keaton, ecco, eseguito stavolta da un'orchestra, non da un pianoforte. Però tenete presente che quando magari erano i cinema che riproducevano questi film, quando magari erano in ristrettezza economica o comunque non avevano grossi mezzi economici, a volte si utilizzava semplicemente un pianista che improvvisava o eseguiva ragtime di altri autori o anche propri. Ok, va bene. Adesso vi faccio sentire appunto il sonoro. God is just a lot of sorrow and despair. Won't someone please talk to me? Don't refuse, hear my plea and help me lose those big city blues. Thank you. proprio un piccolo saggio, chiaramente, di quello che veniva proposto in quegli anni. Già avere una band di questo genere è un'orchestrina, la possiamo chiamare come vogliamo, no? La musica che esegue è uno swing per orchestra, per big band, con magari l'inserimento di strumenti ad arco insieme agli strumenti a fiato e alla parte ritmica. Ecco, questo avveniva spesso anche improvvisando. Chiaramente una musica del genere così costruita non poteva essere improvvisata, però ci sono ancora adesso delle band che si esibiscono, band di pochi elementi, non una big band del genere. Io ho assistito alla proiezione della Febbre dell'oro di Charlie Chaplin, ecco, è un film abbastanza lungo, bello impegnativo, non è esattamente un film comico, comunque uno dei suoi capolavori. E era privo di colonna sonora e anche ovviamente di un sonoro abbinato. È stato proiettato in un cortile e c'era una band, adesso non ricordo il numero degli elementi, erano 5 o 6, tra cui anche un fagotto. Ecco, ricordo del fagotto, che è uno strumento non jazzistico, ma uno strumento classico, e questi elementi avevano delle linee guida in base anche ai momenti della proiezione, delle linee guida comuni, ma poi improvvisavano sopra quelle linee guida. È stata una cosa incredibile, anche perché non me l'aspettavo io in primis, di trovare un ensemble di quel genere lì. Cioè, se io penso appunto a un suonatore di fagotto, io lo vedo solo essenzialmente inserito in un'orchestra classica. Quindi non un musicista che sa improvvisare, però evidentemente mi sbagliavo ai tempi, e lui, e questo fagottista, era un classico esempio di chi va oltre la lettura, che non è una cosa banale, la lettura delle note, per carità, anzi, magari abbiamo parecchi esempi di allievi che sono molto reticenti a leggere le note, no? Però c'è modo e modo di fare musica, si può anche improvvisare. E quello è stato proprio il classico esempio, proiezione di un film, chiaramente in bianco e nero, di Chaplin, con la musica di sottofondo improvvisata, non da uno strumento, ma da un gruppo di strumenti. Assolutamente geniale. Il problema è che non è successo tanti anni fa, non mi ricordo qual era l'ensemble, penso che girino almeno in Italia. La serata è stata fatta nelle mie ex zone, io sono comasco, vabbè, e in un cortile di un paese, però presumo che fosse un gruppo che gira abbastanza, anche perché la qualità era altissima dell'esecuzione, non era una qualità, perdonatemi il termine, da paesino, che è tutto relativo, perché sono paesini dove tra teatro si fa arte, musica, teatro, cinema anche ad alti livelli, semplicemente non hanno la possibilità di diffonderli in modo più semplice rispetto a una città, magari. Ecco, adesso volevo proseguire comunque, per non annoiarvi troppo, con questa parte della serata, anche perché un'ora e mezza chiaramente non è sufficiente per elencare, fare una panoramica totale sulle colonne sonore. Però per me era fondamentale partire da questo, da questa proiezione e da questa esecuzione, per farvi capire gli albori delle colonne sonore, cioè come è nato il tutto. Ok. Una volta superato, ecco, la problematica del sincronismo tra audio e video, quando sono state, ecco, no, anzi, scusate, no, stavo saltando una parte. No, un regista assolutamente geniale, nato in Russia, anzi era russo, nato e morto in Russia, vissuto 50 anni, è nato prima del Novecento, due anni prima, nel 1898, è morto nel 48, quindi ha vissuto esattamente 50 anni, l'avrete probabilmente sentito nominare un po' tutti, almeno nominare Sergei Eisenstein. Magari non conoscete il nome del regista, ma conoscete un film famosissimo suo, perché ha fatto la storia del cinema e anche perché è stato nominato in un film di Fantozzi, La corazzata Potionkin, solo che nel film di Fantozzi viene completamente demolito della sua genialità con un termine che non sto a ripetervi. Ma comunque, se tutti avete visto quel film, tutti o più o meno tutti, sapete la frase che dice Fantozzi, esasperato dall'ennesima proiezione della corazzata Potionkin. Però io alle scuole medie ho fatto un laboratorio, è stato imposto dalla professoressa di lettere, ma è stato un laboratorio bellissimo. Per più di un anno abbiamo fatto inerente proprio al cinema, non alle colonne sonore, ma alle prime forme cinematografiche. Era stato proiettato, credo, proprio un film di Buster Keaton, adesso stiamo parlando della seconda o terza media, quindi è passato talmente tanto tempo che non ricordo benissimo tutto, ma ci è stato proiettato, penso, come secondo film La corazzata Potionkin. Voi immaginate dei ragazzini delle medie a vedere un film del genere. Il sonoro c'era, ma era ovviamente un'orchestra che suonava anche lì, perché ancora stiamo parlando sempre degli anni 20-30. La corazzata Potionkin è del 1925. Ecco. Eisenstein non è stato solo un regista, è stato sceneggiatore, produttore, scenografo. Sceneggiatore e scenografo sono due cose molto distinte. È stato un teorico, ha dovuto anche a volte scornarsi con il regime, perché aveva, per esempio, nel film Ottobre, che celebra appunto la rivoluzione d'ottobre del 1917, ma il film è del 28, ecco, si è dovuto scornare un po' con un'equipe nominata dal regime, ma non è l'unico. Cioè, adesso stiamo parlando di un regista, sono anche musicisti che si sono dovuti scornare con questa situazione, perché erano stati messi in evidenza degli oppositori del regime, come Trotsky e un altro di cui non mi ricordo il nome, ecco, e questo non era stato gradito. Erano stati messi in evidenza, ovviamente volutamente, da Eisenstein come due personaggi di cultura importanti, e questo dava fastidio perché erano oppositori. Quindi ha dovuto rivedere la sceneggiatura, rimuovendo queste figure dal film. Ecco, il film, la colonna sonora è di un autore praticamente sconosciuto, un autore russo, ma sconosciuto. Mentre quello che vorrei farvi sentire, almeno solo in parte, per farvi vedere anche la genialità di Buster Keaton è innegabile, ma è un altro tipo di genialità. Avete visto le scene poco fa, un'auto che si spezza, lui rimane fermo completamente, la scena chiaramente della parete, la scena del treno, la scena anche dei tre uno sopra l'altro che si muovono benissimo, magari a noi sembrano banali, scene girate tra acrobati, facili, e magari sono state girate per una giornata intera, perché magari c'era qualcosa che non andava, uno cadeva, oppure non si muovevano in modo sincronizzato. Quindi è chiaro che poi l'effetto è quello di ridere, vedere scene del genere e di apprezzare questa comicità. Però è il pregresso che è importante. Ok. La genialità di Eisenstein intanto si sposta su temi totalmente differenti, drammatici, comunque storici, drammatici, tragici, e la musica abbinata è di conseguenza. Quello che vi voglio far vedere, almeno in parte, è Alexander Nevsky. Cioè, ci sono tre grandi film, ne ha fatti parecchi, però tre che sono i caposaldi di Eisenstein. La corazzata Potionkin in primis, anch'essa musicata da un musicista comunque non famoso. Alexander Nevsky è stata musicata da Sergei Prokofiev. Qualcuno di voi conosce Prokofiev? A parte gli addetti ai lavori. Ecco. È famosissimo, per chi non lo conosce più di tanto, ecco. Intanto è stato uno dei più grandi musicisti russi di tutti tutta la storia della musica, non è stato uno, poi non solo uno dei più grandi russi, è stato uno dei più grandi musicisti del Novecento in generale, e uno tra i russi, uno tra i più grandi in assoluto. E lui è diventato famosissimo in tutto il mondo per le sue musiche in generale, ma in particolare anche tra i bambini per la fiaba Pierino e il Lupo. Ecco, molti di voi appena sì, lo sanno benissimo. Anzi, ci sono tante edizioni, ma ce n'è una della Deutsche Grammophon Gesellschaft che è molto bella perché c'è in varie lingue, quella italiana, c'è Benigni che fa la parte del narratore. E insomma ci mette un po' del suo anche nella narrazione, piacevole. C'è in quella francese, c'è Aznavour, per dire, quindi volutamente hanno preso Sting in quella inglese, hanno preso dei personaggi importanti, ecco, per fare la narrazione, che è fondamentale. Però non dobbiamo accostare, un po' come facciamo con Ravel col Bolero, ma Ravel ha scritto musiche nettamente al di sopra del Bolero. Il Bolero è un brano geniale, ma ne ha scritte altrettante di una genialità nettamente superiore. Prokofiev idem, tra cui la cantata Alexander Nevsky, che non l'ha scritta a caso, l'ha scritta in collaborazione con Eisenstein. Ecco, io vi farò vedere qualche scena, purtroppo non è coadiuvata dai fotogrammi. Però su qualche libro, addirittura sul mio libro delle medie, io ho un ricordo delle medie in cui ho fatto delle cose che adesso sarebbero inenarrabili. Ecco, però sul libro di musica, di educazione musicale delle medie, c'era uno spaccato, ecco, dell'immagine, dei fotogrammi con al di sotto abbinate le battute della partitura orchestrale, abbinate fotogrammo per fotogrammo. Quindi immaginate anche la collaborazione tra regista e musicista, come è stata meticolosa nei fotogrammi. Non stiamo parlando di una scena di 10 minuti dove ha detto ok, buttami sotto questa musica. Qui lo sguardo di Alexander Nevsky, ok, e lì c'è un accordo. Un'altra immagine di tutta la truppa di soldati con un'altra parte musicale abbinata. Immaginate, Eisenstein è stato un innovatore anche per l'utilizzo di numeri intorno a migliaia di rulli, bobine con i fotogrammi, cioè con la pellicola, per cercare di ridurre il più possibile gli scatti tra un'immagine e l'altra. Quindi stiamo parlando veramente, adesso non pensate alla corazzata Potionkin in stile Fantozzi, che sicuramente non è un film rilassante, o un film che uno alla sera, quando non ha niente da fare, si mette a vedere. Un film. Poi stiamo parlando dell'inizio dei primi anni, primi 20 anni, 30 anni del Novecento, vederlo adesso, ma anche 40 anni fa, era già difficile, no? Già per il fatto che è muto e al sonoro, solo musicale, e poi anche perché sono immagini che attualmente non ci attirano a rimanere più di tanto incollati al video. Thank you. fermarmi proprio su questa immagine. Guardate com'è sincronizzata l'immagine dei soldati che stanno suonando, teutonici, che stanno suonando queste trombe, non sono neanche corni, sì. Poi in realtà sono una via di mezzo, ecco, come suono, ma nell'orchestra sono i corni che suonano. Come ha sincronizzato perfettamente la musica Eisenstein e di conseguenza anche Prokofiev con l'immagine del film. E il film si muove in gran parte, perché non tutto, perché la cantata dura sicuramente di meno. Ecco. Però questa è stata una grande collaborazione tra due grandi, in due settori diversi, ecco, artistici, perché anche il cinema è arte, quindi è considerato anche arte, giustamente, quando è fatto con arte, ma come anche la musica, come la pittura, qualsiasi cosa. Ok, qua vedere una sincronizzazione così accurata proprio nei minimi termini. Interessante questo video, che non so dove l'ho scovato, beh, l'ho scovato su internet, però è molto piacevole, è una cosa importante che ci siano anche questi video, perché come vedete Rai 3, adesso vabbè, Rai 5 che si occupa più che altro di arte e musica, però una volta, ecco, erano molto attenti anche nell'auditorium dove è stato eseguito a proiettare il film con l'orchestra che suonava contemporaneamente, per dare più l'idea, perché molto spesso questa cantata, quando viene eseguita, e l'ho sentita una volta al vivo, ma non con la proiezione del film, spesso viene eseguita, è anche a sé stante, perché è un capolavoro, anche se a voi magari, ascoltando anche tutte queste dissonanze, questi suoni aspri, magari direte, ma cavolo, che musica anche difficile da ascoltare, d'altronde siamo nel Novecento, il romanticismo è stato abbandonato da qualche decennio, e quindi la musica iniziava già dall'inizio del Novecento a seguire un po' le orme anche delle altre forme d'arte. All'inizio del Novecento c'è stata la famosa rivoluzione bohemienne. Pensate a quanti pittori sono nati, artisti in generale, pittori, scultori o anche architetti, che sono nati e sono così differenti l'uno dall'altro. Quanti stili artistici, ma culturali in primis, che anche la cultura legata alla letteratura, alla filosofia, tutte le culture umanistiche si sono mosse generalmente durante i secoli in modo parallelo. E pensate quanti stili sono nati all'inizio del Novecento, stili artistici e di conseguenza anche musicali, cioè ci sono compositori che sono totalmente differenti l'uno dall'altro, eppure erano contemporanei. Questo non succedeva nei secoli precedenti. C'erano musicisti differenti tra di loro, con il loro stile, ma erano legati comunque a un periodo della storia dell'uomo e quindi di conseguenza delle arti, appunto umanistico o periodo culturale, generalmente comune tra di loro. Quindi nel Novecento c'è stata un'esplosione. Non è che ognuno ha fatto come cavolo voleva, sarebbe un modo improprio di esprimersi, però è per dare l'idea. E questa musica sicuramente è molto aspra, però avete visto le immagini, non è che stiamo vedendo delle immagini rilassanti da commedia, assolutamente è azzeccata questa musica ed è geniale, di un grande genio. So che per chi ha sentito, ha ascoltato solo Pierino il Lupo di questo autore, sentire questa musica sembrerebbe tutt'altro autore. Oh, comunque anche in Pierino il Lupo, nei temi di Pierino fatti con gli archi o anche dell'anitra con di tre oboe, non sono temi lineari come nel... sono lineari nel senso che sono orecchiabili, però si muovono molto tra le tonalità o fuoriescono anche dalle tonalità. Non sono temi come quelli di Chopin, di Brahms, di Schumann, siamo ben oltre, pur restando nel contesto della fiaba musicale, perché comunque sono piacevoli da ascoltare quei brani lì. Però se voi li ascoltate senza pensare alla, togliendo la narrazione, so che è complicato farlo. Ah, scusate, ho il microfono e sto parlando senza. Ecco. Però se provate a pensare, sentirete dei temi che non sono così semplici, o i temi o comunque gli arrangiamenti di quei brani lì. Chiaramente non sono a questo livello, qui siamo veramente a sonorità ardite quasi. Non dico, ardite forse è troppo, perché sennò farebbe un torto a Stravinsky o a Schoenberg. Ecco, però stiamo parlando comunque dell'inizio del Novecento, quando per molti intellettuali anche, che andavano ad ascoltare musica nella sala da concerto, non era facile ascoltare questa musica, erano figli del tardo romanticismo. È come per chi all'epoca già si era accostato all'impressionismo, che già era molto lontano dalla pittura romantica, e accostarsi poi a un Kandinsky, a Picasso o ad altri artisti rivoluzionari. Stessa cosa vale per la musica. Ecco, questa è una cantata per contralto, coro e orchestra. Qui in questo spezzone di film c'era il coro con l'orchestra. Il contralto canta, mi sembra, in due parti. Sono sei, se non sbaglio, adesso vado più o meno a memoria, sei o sette parti divise di questa cantata. E sono legate un po' agli spezzoni. Avete visto che all'inizio di questa parte, anche cinematografica, è venuto fuori, è fuoriuscito un titolo, okay, I Teutoni, no? E quindi vuol dire che anche il film è diviso in parti a sé stanti, ma collegate tra di loro. Stessa cosa vale per la musica, che è andata di pari passo. Ecco, qui spero. No, non abbiamo finito. No, intendo, spero con questa proiezione, ecco, di avervi quantomeno fatto apprezzare un regista che sarebbe difficile da apprezzare senza conoscere un po' il pregresso. Mettersi adesso a vedere tutto il film, sicuramente dopo un po' direte: mamma mia, vado a vedermi Colazione. No, ecco, ho anticipato un film di cui volevo parlarvi. Vabbè, vado a vedermi Pretty Woman, ecco, per rilassarmi. Ok, però tenete presente che il cinema russo non si è mai fermato, tra l'altro, come quello giapponese, che sono lontani magari dal nostro gusto, però hanno abbracciato registi, sceneggiatori di un livello assolutamente altissimo e geniale. In Giappone c'è stato Akira Kurosawa, e dovete tenere presente che magari noi, se ci guardiamo I Sette Samurai o Sogni o Ran, magari dopo mezz'ora di film diciamo: cosa sta succedendo qua? Ecco, in questo film ci annoiamo, non lo so. Però se uno si documenta prima, magari lo apprezza di più film del genere, perché dovete pensare che molti registi che noi apprezziamo anche attualmente si sono ispirati tantissimo a questi geni. Ad Eisenstein sicuramente, anche i registi francesi, dovete pensare, il cinema francese è uno, intanto è nato lì, dai fratelli Lumière, il concetto del cinema, dei fotogrammi in movimento. E poi hanno fatto la storia del cinema, non solo loro. Però è preponderante il cinema francese, ma anche i grandi registi francesi del Louis Buñuel o Alain René, ecco, stiamo parlando di registi non attuali, si sono ispirati tantissimo a Kurosawa piuttosto che ad Eisenstein. E Kurosawa, di rimbalzo, diceva a Miyazaki: conoscete Hayao Miyazaki come regista di film d'animazione giapponese? Ha fatto dei film che non sono noti chiaramente come i Disney, perché sono stracolmi di simbolismi legati alle culture orientali. No? Però Miyazaki è vivo ancora, in parte. Anzi, qualche anno fa, è stato? L'anno scorso, due anni fa, hanno dato anche qui Il ragazzo e l'airone. Ecco, vi dice qualcosa. Ecco, Il ragazzo dell'airone, bellissimo film, non certo a livello di altri che ha fatto precedentemente, tanto che voleva già ritirarsi tempo fa, poi è considerato forse il più grande regista e realizzatore anche di film d'animazione. Non sono chiaramente film leggeri, come dicevo prima, come leggeri o comunque immediati alla comprensione, all'apprezzamento come quelli di Disney, che ha un'animazione straordinaria, non stiamo parlando di questo. Qui ci sono di mezzo tanti concetti che magari a noi siamo un po' pesanti perché non li capiamo, perché dovremmo conoscere tutto il simbolismo che usa lui nei suoi film. Però vi assicuro che ha un'animazione straordinaria, colori, disegni eccezionali, tanto quanto quelli della Disney, sono diversi. E Hayao Miyazaki è considerato il maestro mondiale, probabilmente di tutti i tempi, dell'animazione. E ce ne sono altri che non sono così conosciuti, che sono altrettanto bravi, non solo giapponesi. E Kurosawa ha detto che avrebbe dato non so quanti film dei suoi per uno di Miyazaki. Cioè, pensate, è quasi l'assurdità, cioè Kurosawa è stra-ammirato da tanti registi anche attuali, anche giovani, registi di alto livello ovviamente, e di rimbalzo Kurosawa ammirava invece così tanto Miyazaki che avrebbe anche regalato dei film suoi per avere secondo lui la genialità di Miyazaki. Sembra impossibile, ma è realmente così che abbia detto questa cosa. Ok, adesso rendiamo un po' più leggera la situazione. No, arriviamo a, non dico ai giorni nostri, arriviamo all'introduzione del sonoro. Scusate. E qui potremmo stare qua giorni interi a fare degli esempi. Io, siccome la serata non è prettamente sul cinema, è un mix, vorrei, anche per poi coinvolgere anche la mia collega, chiaramente, rendervi partecipi di artisti, quindi registi, ma soprattutto musicisti, che hanno legato quasi interamente la loro vita musicale, parlando dei musicisti, al cinema. E uno che è un grandissimo compositore di colonne sonore, ecco, è stato Henry Mancini, scritto Mancini. Conoscete, a parte quelli di... Ecco, Henry Mancini era un compositore americano che praticamente ha fatto la sua fortuna con film di più o meno alto livello, ecco. Però non è tanto il livello dei film per cui era chiamato a fare la colonna sonora, e la sua genialità nel comporre musiche di carattere totalmente diverso a seconda del film per cui componeva la colonna sonora. Per darvi un'idea, John Williams, che è molto più conosciuto, che è vivo ancora tra l'altro, ha scritto decine e decine di colonne sonore per film anche molto famosi, più o meno geniali, però il carattere musicale di John Williams lo si capisce quasi subito all'ascolto. Perché se uno ascolta, per dirvi le colonne sonore di John Williams, Incontri ravvicinati al terzo tipo, E.T., Indiana Jones, Jurassic World, adesso vabbè, ne ha fatte talmente tante, ci sarebbe Harry Potter, però quello è un po' diverso ed è straordinaria quella. Star Wars, se voi ascoltate tutte queste colonne sonore, sentite, almeno percepite, che sono scritte dallo stesso autore. Se voi ascoltate 3-4 brani differenti, da 3-4 film differenti con le colonne sonore di Henry Mancini, sembreranno 3-4 autori differenti, eppure l'autore è sempre lo stesso. Adesso noi, io e Ludmila, eseguiremo un brano famosissimo di Henry Mancini e poi io vi farò un accenno di un altro brano. Ovviamente sono inseriti in due contesti differenti, due film differenti di carattere completamente differente. Ok, e direte anche tra di voi, ma non sapete, o magari lo sapete già che sono suoi, beh, intanto perché ve l'ho detto io, però magari dite, ah, non pensavo che fossero di Mancini questi brani. Adesso eseguiamo, conoscete più o meno tutti, almeno per sentito dire, Colazione da Tiffany. Ecco, la colonna sonora è di Mancini e un brano tra i vari che ha scritto per quel film, famosissimo, è Moon River. Adesso ve lo eseguiamo, l'avrete sentito, chi non l'ha mai sentito sentirà stasera. E la versione originale ovviamente è di Audrey Hepburn, che lo suona con una chitarra, non lo so se la suona realmente lì, però comunque l'originale è voce e chitarra. Noi lo eseguiremo con violino e pianoforte. Penso più o meno lo conosciate tutti, anche solo accennato, ed è un brano di una dolcezza eccezionale, ecco. Però è anche molto romantico, ecco, come brano. E lo stesso autore però, adesso vi fa accenno un brano suo, dove direte cosa c'entra, com'è possibile che sia lo stesso autore. Ed è un brano assolutamente geniale. La Pantera Rosa, molto, molto spesso questo, il film è un film piacevole, divertente, un bel film sicuramente, su quel genere, però la musica è geniale, ma sembra scritta da un autore straconosciuto. Uno direbbe, uno che ha scritto questa musica non può non essere conosciuto, però molti con cui parlo, parlato io, lo conoscono a malapena, o quantomeno il brano sì, ma l'autore no. Eppure è un brano che secondo me è di una genialità altissima, perché ha trovato il carattere giusto per quel film, che è ironico, poliziesco, chiamiamolo così, ha tanti caratteri che sono all'interno anche di queste poche note che sentite all'inizio. Poi molti di noi lo accostano a come? Al cartone animato, esatto, quindi lo rendono ancora più divertente, no? Però chiaramente non era stato scritto per il cartone animato, che è stato realizzato poi successivamente, però nessuno penserebbe che possa essere dello stesso autore del brano ascoltato prima. Un altro brano famoso, adesso mi sono alzato, no, ma stai. Conoscete Peter Gunn dal titolo? Non vi dice niente. Quanti di voi più o meno hanno visto i Blues Brothers, il film? Ecco, buona parte. Quel brano che si sente di sottofondo, adesso non me lo ricordo a memoria, quindi abbiate pietà se... Ok. Ecco, questo brano è sempre di Henry Mancini, o Mancini, dipende se lo vogliamo dire all'italiana oppure no. Eppure è un altro brano che non c'entra niente né con la Pantera Rosa, che è un brano swing, è un brano che viene eseguito da una big band, quindi avete presente cos'è una big band? È un'orchestra jazz. L'orchestra jazz, le orchestre jazz sono nate intorno agli anni 30-40 e suonavano nei locali quelli esclusivi generalmente, dove c'era anche gente che ha iniziato a ballare questi generi composti da autori che scrivevano per i vari strumenti e venivano, è stato un po' l'evento dello swing, se l'avete sentito nominare, che è un genere jazzistico legato a una ritmica che viene chiamata swing, ma non è solo una ritmica, è proprio un genere musicale che veniva spesso anche ballato in questi locali. E la Pantera Rosa non è nata per essere suonata nei locali, chiaramente, è nato per il film, per quel film. Però lo stile musicale è quello dello swing, ecco, e ha dentro anche una parte improvvisativa. Ecco, le big band erano composte da una sezione di ottoni, quindi trombe e tromboni, una sezione di sax, di cinque sax generalmente, un baritono, due tenori, due contralti, e poi una sezione ritmica, inizialmente pianoforte, contrabbasso e batteria. Poi si è aggiunta anche piano piano anche la chitarra, chitarra elettrica, perché per suonare insieme a una big band, se no non si riuscirebbe a percepire il suono dello strumento, una chitarra specifica per quel genere musicale. Però è stata introdotta successivamente. E infatti quando magari andrete poi a casa a ascoltarvi il brano per intero, sentirete che ci sono questi strumenti all'interno del brano della Pantera Rosa. Invece Peter Gunn è un brano più moderno. Blues Brothers, stiamo parlando adesso fine anni 70, anni 80 come film, e quindi anche i brani che sono all'interno. Ecco, per chi ama il blues, il rhythm and blues, il soul, i Blues Brothers è una miscellanea incredibile di tutti questi generi musicali eseguiti da musicisti di altissimo livello, alcuni molto famosi come Aretha Franklin o Ray Charles, anche quello che cantava Minnie the Moocher, Cab Calloway. Ecco, sono tutti grandissimi musicisti che hanno partecipato a questo film, che io trovo non solo divertente, ma... Scusate se sono ridondante parlando di genialità, ma è un film geniale, anche i Blues Brothers. E tutte le musiche abbinate sono altrettanto geniali, tra cui anche Peter Gunn, che fa da sottofondo ai due Blues Brothers che stanno andando verso Chicago con la macchina. Esatto, rincorsi dalla polizia. Beh, ce ne sono vari di brani, non c'è solo quello. Quello è un momento del film, no, forse quello non sono rincorsi da... Adesso sto cercando di ricordarmi perfettamente. Non mi ricordo esattamente il momento, ma loro sono in macchina, ma non è il momento in cui sono rincorsi dalla polizia. Quando c'è... Sì, loro hanno la vecchia macchina, perché la ruba Danny Aykroyd, ecco, perché... Sì, non hanno soldi, quindi quell'altro è in prigione, lo va a prendere con la macchina della polizia fuori dalla prigione. Assolutamente divertentissimo e ha una parte di genialità notevole sia nella colonna sonora sia nella parte cinematografica. Ecco, ci sono stati e ci sono tuttora due tipi di registi legati al concetto della colonna sonora, e alcuni che hanno diretto dei film con il concetto, un concetto, e gli altri con un altro concetto di colonna sonora. Di che concetti sto parlando? Sto parlando dell'utilizzo di una colonna sonora preposta per il film, cioè scritta come ha fatto Eisenstein con Prokofiev, però legata agli anni del sonoro. Quindi film con una colonna sonora scritta prettamente per quel film, cioè non brani presi dal repertorio classico, jazz, rock, pop di altri autori e inseriti nel film. E invece poi ci sono stati altri registi che hanno invece attinto da composizioni già esistenti e le hanno inserite nei loro film. Ecco, uno dei più grandi tra questi è sicuramente Kubrick, però lo tratteremo dopo. Ecco, Kubrick è l'esempio pratico, ha iniziato anche lui facendo scrivere colonne sonore per i suoi film, però poi ha deciso lui quale musica inserire, ma musiche che già conosceva, perché aveva una cultura talmente smisurata che conosce cultura in generale, ma soprattutto musicale, perché è andato a prendere brani d'autori. Guardate, io vi dico, io sono un appassionato di musica classica da quando ero piccolo, così, perché mio padre mi ha riempito piacevolmente la testa di musica classica, e conosco autori anche contemporanei o pseudo contemporanei, cioè morti pochi decenni fa, ecco, che non sono così noti, perché ho quella passione, è una questione di passione, e mi piace molto anche la musica anticonvenzionale, sempre legata all'aspetto classico, ma vi assicuro che ci sono dei brani utilizzati da Kubrick, anche di questi autori, che io non ho mai sentito se non in quel film. Quindi vuol dire che faceva una ricerca meticolosissima, oltre a essere meticoloso nel girare le scene. Provate ad andare a chiedere, è impossibile, a Tom Cruise, a questi attori che sono passati sotto le grinfie di Kubrick, quante volte hanno dovuto rifare la stessa scena magari da un minuto, due minuti, ma stiamo parlando non di due o tre volte, perché Kubrick era talmente scrupoloso e pignolo che la faceva rifare costantemente, perché c'era una virgola sbagliata secondo lui, secondo i suoi carmi. Arriviamo dopo lì. Arriviamo all'Italia anche, perché vi ho fatto gli esempi di Buster Keaton, ok, con la musica improvvisata, ho fatto gli esempi di Eisenstein, quindi la Russia, Eisenstein, Prokofiev. Gli esempi di Henry Mancini, che avrà anche un cognome italiano, ma era assolutamente americano. I suoi avi sicuramente provenivano dall'Italia. Ecco, arriviamo però all'Italia, perché l'Italia non è che abbia fino adesso giocato un ruolo marginale. Ecco, l'Italia è stata vincolata anch'essa a un regime fino a quando c'è stato il regime, e come tutti i regimi mettono dei paletti anche agli artisti. Ecco, e danno delle linee guida, quando secondo, è un'assurdità se ci pensate, perché l'artista non c'è lavoratore più libero nell'esprimersi di un artista, che sia musicista, che sia regista, pittore, scultore, ed è giusto che lo sia, non deve seguire una corrente, la sceglie lui semmai una corrente da seguire. E questo ha limitato anche a livello cinematografico nel Novecento l'avvento di assoluti geni. In primis, e andremo tra poco a eseguire almeno un brano, che ora abbiamo fatto? Sì. Ve l'ho detto, un'ora e mezza, adesso manca ancora mezz'ora, però un brano di un autore che poi si è legato a un regista, forse uno dei più grandi che abbiamo avuto, cioè Federico Fellini. Ecco, per molti è più grande, per altri no, ma non stiamo qui a fare le classifiche, perché in Italia registi ce ne sono stati, qualcuno c'è ancora di altissimo livello, e è difficile dire chi è più. Antonioni può essere più o meno bravo di Fellini, Visconti, esatto, Rossellini, oppure ma anche nel suo genere quello di Amici miei, porca miseria, Monicelli, cioè è difficile fare una, non si può fare queste classifiche, farebbe torto a uno piuttosto che a un altro. E poi a volte è questione di gusti. C'è un discorso soggettivo legato, ma come in tutto, in tutta l'arte, c'è la parte soggettiva e c'è, scusate, oggettivo. Ecco, c'è un'oggettività legata alla genialità, alla capacità di creare qualcosa di nuovo, di interpretare qualcosa che c'è, per carità. Ecco. E il compositore è Nino Rota, tanti l'avranno sentito, e lui è nato come compositore classico, di musica classica, ha scritto anche brani di musica sperimentale, sempre nell'ambito classico. Dopodiché la collaborazione in particolare con Fellini l'ha fatto orientare alla musica legata al cinema, e ha scritto delle colonne sonore mirabili. Ecco, adesso eseguiremo dei pezzettini, perché sennò stiamo qua fino a domani, di Nino Rota, tratti da un paio di film di Fellini che molti di voi probabilmente avranno visto. Uno è Amarcord, e tra l'altro il tema ricorrente di Amarcord è, penso che sia il tema più famoso in assoluto di Nino Rota. Quando ci sono, tra l'altro mi sembra in questi giorni c'è un anniversario legato a Fellini, ecco, quando fanno anche un servizio al telegiornale su Fellini, parte sempre in sottofondo il tema di Amarcord, anche se in realtà ce ne sono tanti altri, non solo di Nino Rota. Ecco, però è stato quel connubio, un po' come Ennio Morricone con Sergio Leone, e non solo, però con Sergio Leone c'è stata una collaborazione decennale. Stessa cosa vale per Nino Rota con Fellini. Ok? E anche, comunque anche Rota aveva intanto una capacità compositiva straordinaria, e aveva anche molta varietà sia di temi che di stili musicali all'interno del proprio stile. Non è che quando sentite il famoso brano di 8:30 lo legate per forza al tema di Amarcord o al tema del Padrino. Ecco, il Padrino non è di Fellini, è di Francis Ford Coppola. Però Francis Ford Coppola, scusate la pronuncia. Ecco, però per dire, sono la colonna sonora del Padrino è fatta comunque da Nino Rota, è musicata da Nino Rota, eppure stiamo parlando di musiche totalmente differenti tra di loro, anche per le epoche, cioè non sono scritte nello stesso decennio piuttosto che negli stessi anni, peggio, ma a distanza notevole l'uno dall'altro. Ecco, volevo solo, appendice su Nino Rota, spendere una parola in più proprio a questo compositore che è diventato grande grazie a Fellini, ma Fellini, essendo anche un regista un po' di nicchia, conosciuto da tutti, ma non tutti hanno visto, penso, più di 3-4 film suoi, parlando di tutti, della massa, perché molti film sono anche complessi, 8:30 in particolare, no? Ma non solo quello, Giulietta degli Spiriti anche, per fare alcuni esempi, non sono facili. Amarcord stesso, però Amarcord è più immediato perché è legato anche al periodo storico del fascismo nella provincia, nella campagna romagnola. Quindi ci ritroviamo, non magari le persone della mia età, però per esempio mia nonna, ma anche i miei genitori si ritrovavano un po' in certe immagini, perché poi io vengo da una realtà, appunto, di un paesino, per cui anche i miei genitori piuttosto che i miei nonni erano spesso contadini, e quindi si ritrovano anche un po' in quella realtà, hanno vissuto in quel periodo e tutti quegli episodi che sono un po' correlati l'uno con l'altro in Amarcord sono straordinari. Però 8:30 è sicuramente uno, forse il film più complesso che ha girato Fellini. Ok, adesso noi eseguiremo, vediamo, iniziamo dal Padrino, ecco, e poi eseguiremo anche un incipit solamente del tema di Amarcord. In questi brani li conoscete più o meno. Ecco, sapevate che erano di Nino Rota questi brani qua. Ecco, comunque, beh, adesso lo sapete. No, sono due brani, come avete sentito, totalmente differenti, perché i temi che si trattano nei film sono totalmente differenti. Però pensate a quanto sia riuscito il compositore ad arrivare all'argomento, ai personaggi, cioè al padrino. Poi c'è un testo legato, parla più piano, ovviamente, il testo del brano del padrino, però è anche un tema che è ricorrente dentro nel film. Ecco, e chiaramente quel momento lì è un momento importante, no? Ecco. E evidenzia tutte le caratteristiche del personaggio, perché il testo lo evidenzia, ma anche questa musica, che è un po' velenosa quasi, è malinconica, ma quella malinconia velenosa è legata a quelle che chiamiamo in musica dissonanze, cioè movimenti tra dissonanze o comunque semitoni, cioè movimenti di note molto vicine. Ecco, in quel contesto musicale creato da Nino Rota, questi si abbinano perfettamente ai personaggi, al tema trattato. Stessa cosa vale per Amarcord. Sentite con quale ironia quasi si muove la melodia di questo brano. Accompagnamento molto semplice. Anche ritmicamente, molto quasi popolare, e infatti Amarcord è girato nella campagna romagnola, quindi è girato in un contesto popolare, però il tema è assolutamente geniale ed è una melodia così anche lineare che è entrata nelle orecchie di tutti noi, penso, almeno di chi lo ha sentito anche solo per la prima volta. Io l'avevo ascoltato da piccolo, magari non avevo visto il film, ma ho ascoltato questo tema o alla radio o in TV, e mi aveva colpito subito. Non dico che mi sia piaciuto subito, non mi ricordo perché ero troppo piccolo, però sicuramente mi è rimasto talmente nell'orecchio che poi, quando ho scoperto che era di questo grande autore, ma non solo di colonne, insomma, era un grande musicista di una volta, a 360 gradi. Poi, chiaro che la fortuna l'ha fatta con la musica per il cinema, l'ha fatta grazie a Fellini, chiaramente, perché spesso, volenti o nolenti, i musicisti che scrivono colonne sonore diventano famosi grazie ai film per cui sono state scritte, almeno quelle che li hanno lanciati sul mercato. Sapete dirmi il nome, qualcuno di voi, del musicista, del compositore delle musiche dei Pirati dei Caraibi? Hans Zimmer. Esatto, Hans Zimmer mi dice qualcosa. Qualcuno di voi lo conosce, altri no, però i Pirati dei Caraibi, almeno il titolo, più o meno tutti l'abbiamo visto scritto o pubblicizzato in TV. A parte che è un film anche molto piacevole, divertente, ma anche interessante sotto vari punti di vista, anche storici, se vogliamo. E la musica è assolutamente geniale. E Hans Zimmer è un compositore attuale. Ecco, questo per un po' stemperare anche questa idea che adesso non ci siano più registi bravi, musicisti bravi. Non è vero, ci sono, e come. Adesso Hans Zimmer non è un ragazzino, ha già un'età adulta, decisamente adulta, ed è, ha già una quantità abbastanza interessante di colonne sonore. Però anche lui è diventato famoso grazie a un film. Non è un autore che si conosce al di fuori dell'ambito cinematografico. Anche se adesso lui, con la sua orchestra, gira il mondo a eseguire le sue musiche. Come ha fatto anche Morricone. Ecco, l'ha fatto a lungo, soprattutto da una certa età in avanti, cioè quando non si è più limitato a scrivere per il cinema, ma ha iniziato a valorizzare il fatto di girare con un'orchestra, la propria, un'altra orchestra, e eseguire le proprie musiche non è un esibizionismo o un modo per abbassare il proprio livello, tutt'altro, anzi è giusto che abbiano valorizzato le loro musiche, perché sono, alcune di esse sono straordinarie anche al di fuori dei film per cui sono state scritte. A volte i film non sono neanche all'altezza di alcune di queste musiche. Non è l'esempio del Padrino o di Amarcord, mi sto parlando di genialità nella parte cinematografica e nella musica. Però vi assicuro che ci sono musiche stupende perché sono legate a film, non dico di livello, basso livello, ma non certo geniali come lo sono le musiche per cui sono state scritte. Guardate, non me ne vogliate, ma Colazione da Tiffany è sicuramente una commedia piacevole, fatta anche bene, ma non è un film geniale. La musica per cui è stata scritta, sì. È uno degli esempi, ma ne possiamo trovare tanti. Molto spesso i registi bravi, che sanno fare cinema, si avvalgono anche di musicisti bravi, non sono stupidi, perché il regista bravo non è un professionista che si limita solo essenzialmente al proprio mestiere. Di solito allarga la mente e approda anche a tante sfaccettature legate all'arte, alla cultura, per fortuna, e ce ne sono ancora. Guardate, Tornatore lo conoscerete più o meno, almeno per sentito dire. Adesso non è più giovanissimo, ma quando era giovane era il classico giovane, sì, va bene, un bravo regista, ma i registi bravi erano una volta, ok, ma lui è un regista che assolutamente ha un livello artistico molto alto. Poi non tutti i suoi film sono dei capolavori, ma lui ha girato dei capolavori, e anche lui, come faceva anche Sergio Leone, è figlio della generazione di Sergio Leone, è uno dei suoi pupilli. Ecco, lui si è avvalso di un autore come Ennio Morricone, non l'ultimo arrivato. Vedete un po' come... No, prego, avanti. A proposito di Morricone e Leone, vedo che nasceva prima la colonna sonora e le scene Leone le adattava a Leone. Questa è una bella domanda. Purtroppo difficilmente si riesce a sapere queste cose. C'è chi sostiene una cosa, chi sostiene un'altra. Probabilmente è vero, è vera. Perché, come dicevo prima, c'erano non solo Sergio Leone, ma anche altri registi che si avvalevano di musiche già esistenti. Però qui la collaborazione era talmente stretta che può essere che Morricone proponesse delle musiche a Sergio Leone e che Sergio Leone le scegliesse in base alle scene. Questo sì. Però adesso io direi con sicurezza non saprei. La sequenza iniziale c'era una volta questa, per esempio, mm-hmm. Ci sono delle musiche che sono fatte apposta per quella scena. Ah sì, beh, come la scena del, adesso non è in C'era una volta West, quella o è lì dentro, il buono, il brutto e il cattivo. La scena dell'uomo con l'armonica. È il buono, il brutto e il cattivo, mi sembra. E c'era una volta questo. Ecco. E quindi praticamente quella è scritta per quella scena, chiaramente. Tanto perché è eseguita da un armonicista, il suono che si sente è di un'armonica. La sequenza iniziale del film. Sì, sì, sì, sì. Non mi ricordo perché sono tre film che hanno talmente tante attinenze l'uno con l'altro, anche perché sono legati l'uno all'altro, che lì diciamo che Morricone, non dico che abbia dato il meglio di sé, ma quasi. Cioè, è difficile dire anche qua, dello stesso autore, quale è meglio tra le musiche che ha scritto. Ne ha scritte tante. Talmente belle, talmente geniali, è difficile, poi va anche soggettivo. Sì, sì, adesso te la suoniamo. Siccome è stata richiesta, no, sto scherzando. No, hai fatto bene, ma anche perché Gabriel Sobue, giustamente lui diceva, lo conoscete Gabriel Sobue? Ecco, è all'interno di un film, un bel film, Mission, non è un film geniale, è un bel film, ma il brano, Gabriel Sobue, che è il brano che viene eseguito da Gabriel, che è questo missionario che va in Amazzonia per convertire e poi diventa anche, aiuta tantissimo una comunità di indios. Ecco, lui si ferma davanti alle cascate dell'Iguassù. Sapete, insomma, le cascate dell'Iguassù sono tra le cascate più belle tra le più belle del mondo. Sono un po' dal confine tra Brasile e Argentina, e lui si ferma davanti alle cascate con un oboe e suona. Anche qua la genialità, ma a chi verrebbe in mente un oboe? Perché questo missionario suona un oboe? Poteva avere uno strumento più convenzionale, una chitarra, anche un flauto, ma proprio un oboe. L'oboe è uno strumento molto raffinato. Avete presente un po' il suono dell'oboe? Se avete presente quel brano lì, adesso lo eseguiremo, quello del 2000, praticamente siamo shiftati direttamente a Ennio Morricone. Ecco, Ennio Morricone, anche lui arriva dal conservatorio, chiaramente, come compositore. Anche lui ha iniziato a scrivere musica non solo moderna, proprio anche sperimentale. Però poi ha avuto la sua fortuna, conoscendo Sergio Leone, conoscendo anche altri registi, ecco, di diventare grande grazie alle colonne sonore, che sono conosciute in tutto il mondo, eseguite in tutto il mondo, non sono più grandi come livello rispetto a quelle di Nino Rota. Nino Rota aveva una marcia in più, non per fare torti a Ennio Morricone. Ennio Morricone, le sue melodie sono talmente entrate nel nostro cuore, non solo nella nostra mente, che sono indelebili. Magari quelle di Nino Rota meno, però la genialità con cui ha trattato la materia musicale Nino Rota è sicuramente di un livello superiore. Comunque, senza nulla togliere. Tra l'altro, pensate l'assurdità che Ennio Morricone, il primo Oscar che ha ricevuto, questo la dice lunga su come vengono assegnati i premi a Hollywood, perché non prendiate tutto oro che luccica quello che succede a Hollywood, perché molto spesso non premiate persone che non lo meritano. Sono ben altre le sedi cinematografiche dove si danno premi seri, cioè dove si giudicano, ma in modo con cognizione di causa, i registi e i film. Cioè sono Cannes, Berlino, Venezia, poi ce ne sono altre, però queste sono tra le più importanti, non ogni. No, tanto per dire, il primo Oscar è stato dato a Morricone alla carriera, come se prima avesse fatto musiche di basso livello, cioè comunque non interessanti, e si sono svegliati a dare un Oscar a Morricone alla carriera, cioè quando era arrivato quasi alla fine. Poi, grazie a Dio, c'è stato un Quentin Tarantino che nel suo, penso, penultimo film, perché forse ne ha fatto un altro dopo, adesso non mi ricordo, ha fatto fare la colonna sonora da Morricone e lì gli hanno dato l'Oscar, ma è post Oscar per la carriera. E per dire, adesso abbiamo quasi finito, purtroppo ci avremmo voluto fare anche altre musiche, però magari ve le facciamo, io smetto di parlare così almeno. Piovani, che è il compositore della colonna sonora della Vita è Bella di Benigni, ecco, lui ha preso l'Oscar, aveva forse meno di 50 anni, adesso vado più o meno, ha ricevuto l'Oscar per la colonna sonora. Il Morricone, che ne aveva molti più di lui, quando lui ha ricevuto l'Oscar ancora non aveva neanche quello per la carriera. Queste sono le assurdità che capitano quando danno questi premi. Volevo dire che abbiamo anche un conterraneo, Giorgio Moroder, che ha fatto... Giusto. Metropolis, Flashdance. Sì, ecco, Flashdance è forse più... Però Metropolis è un film, diciamo, geniale anche. Perché poi è stato realizzato negli anni 20-30, cioè comunque è molto antico. Sì, Moroder, assolutamente. Ci vorrebbe tanto tempo per parlare di Moroder, ecco, perdonatemi, perché in effetti è un conterraneo di Ortisei, se non sbaglio, no? Giorgio Moroder adesso vive da tanti anni a Los Angeles, perché comunque la sua fortuna l'ha fatta all'estero, però è un grande, è nato come DJ, è produttore, anche compositore, ma utilizzando i mezzi elettronici. Non è un compositore come Rota, Morricone, che viene dal conservatorio, dalla musica classica, però le sue melodie inserite, anche Top Gun. Sì, quello che stai facendo. Take My Breath Away, ecco, quello anche. Voi, se lo vedete scritto, autore, Studio Berlin c'è scritto, ma è lo studio dove ha lavorato, e non so se ci lavora ancora adesso Moroder, perché magari non c'è scritto su tutti gli spartiti di questi brani Giorgio Moroder, spesso c'è scritto Studio Berlin, ma sappiate che sono composti da Moroder. Ok, se no facciamo quadro il solo. Ascoltarli, povera. Ecco, questo penso che lo conosciate più o meno tutti, questo brano, anche solo perché è passato per caso in TV, è un brano talmente struggente e ha un qualcosa di mistico all'interno, ha degli accordi piuttosto che movimenti melodici quasi religiosi, e guarda caso è scritto per quel tipo di film. Non è anche un grande compositore, non si limita al tema generale di un film, si limita al momento, può anche dentro in un film può esserci un momento anche di religioso, mistico, può esserci un momento concitato, tanti momenti diversi. E un bravo compositore di musica, di colonne sonore, deve saper abbinare un po' le varie situazioni, cioè le musiche a seconda dei momenti all'interno di un film. Questo è un grande momento, sia da vedere nel film, sia da ascoltare. Ecco, prima ho citato Piovani, ma non perché ce l'ho con Piovani, è un bravissimo musicista, per carità, però secondo me c'è qualche incongruenza sul fatto che lui abbia preso, ma lui come lui tanti altri, a me viene in mente Piovani perché è italiano e Morricone tanto quanto, è un po' un controsenso secondo me che abbia ricevuto prima un Oscar per una colonna sonora sicuramente molto piacevole, molto bella, la colonna sonora della Vita è Bella. Adesso noi vi faremo un accenno, se avete un attimo di pazienza, poi purtroppo dobbiamo chiudere. Tra l'altro io volevo parlare soprattutto di Kubrick e farvi ascoltare alcuni pezzi. Se qualcuno vuole fermarsi 5 minuti in più, gli do qualche input, se no assolutamente sentitevi liberi anche adesso di andare, non vi preoccupate. Intanto, se qualcuno di voi non conosce magari il tema principale della Vita è Bella, ecco, ve lo eseguiamo adesso, almeno un pezzetto facciamo, però ce n'è più di uno. Legato a un episodio che è diventato famoso anche quello, in cui lui investe praticamente la moglie in bicicletta e dice buongiorno principessa, e c'è un brano bellissimo sempre di Piovani, strumentale in quel caso, legato a questo momento. Ecco, solo un accenno di Kubrick, vi volevo far vedere solo magari una scena. Stanley Kubrick, più o meno, almeno di fama, qualche film l'avete visto più o meno, c'è D'Arancia Meccanica, è uno dei più famosi perché aveva fatto molto scalpore ai tempi, perché era un film di una violenza che visto adesso sembrerebbe abbastanza irrilevante come violenza, ma è una violenza anche psicologica. Già il termine Arancia Meccanica, ciao grazie, che in inglese è Clockwork Orange, ecco, sarebbe il titolo originale. È un termine tipicamente britannico per indicare qualcosa di bizzarro, sottile ma bizzarro. Ok, e ciò che è sottile e bizzarro in quel film è questa banda chiamata i drughi, ecco, capitanati, banda, sono in quattro se non sbaglio, capitanata da questo Alex che fa il capetto dentro lì, e che si divertono a fare violenza di qualsiasi genere su persone che non hanno niente a che fare con loro. Ecco, quindi è proprio estremamente gratuita. E come la rende Kubrick? Addirittura c'è una scena famosa in cui entrano in un set di un teatro, non di un film, all'aperto, e iniziano a picchiare le persone presenti sul set, e la musica di sottofondo è La gazza ladra di Rossini, che è un brano assolutamente divertente, piacevole, brillante, brioso. Ma non è sbagliato l'abbinamento, anzi, la genialità di Kubrick è stata proprio quella di inserire un brano che è legato ad aspetti divertenti, no, di una storia altrettanto divertente, che è quella della Gazza Ladra, è un'opera comica, diciamo così, di una commedia musicata da Rossini, ecco, legata invece a dei momenti di violenza inaudita. Qual è la genialità? Che non la banalizza lui, fa percepire a chi guarda la scena un modo scherzoso che hanno queste persone di divertirsi, picchiando gli altri. E lo fa proprio utilizzando una musica che non è violenta, tutt'altro, proprio l'opposto. Ci sarebbero un'infinità di esempi sui film di Kubrick, ecco, di questo genere qua. Per chi ha visto Shining, adesso vediamo se ce l'ho qui a portata di mano, ecco la scena, Barry Lyndon, Shining, triciclo, ecco questa scena. Magari non tutti hanno visto questo film perché è un thriller quasi horror, no? Sentite la musica di sottofondo. A questo bambino, il bambino che va col triciclo e la telecamera come lo segue da dietro. Anche questa è una cosa inventata da Kubrick. Il bambino che ha questo viso che non, dove si capisce che non sta comprendendo neanche forse perché si trova lì a girare in un hotel dove non c'è in giro nessuno e gira con questo triciclo tra i corridoi di questo grande hotel, e l'angoscia è creata proprio da questa musica è di Béla Bartók, grandissimo compositore dell'inizio del Novecento, ungherese, stato il più grande compositore ungherese in assoluto di tutti i tempi. È stato seguito poi da un altro grande, ma stiamo parlando di musica contemporanea, utilizzato anche da Kubrick, per esempio in 2001 Odissea nello spazio, o anche in Eyes Wide Shut, che è Györgyi Ligeti, compositore morto qualche decenni fa, ecco, non da tantissimo. Béla Bartók, stiamo parlando di un autore morto nel 45, di tutt'altra epoca, però la musica è già molto avanti come, come concetto, per esempio, di atonalità. Questa musica è totalmente atonale. Si chiama Musica per archi, percussioni e celesta. È un brano di una genere. Quando l'ho sentito per la prima volta ero alle medie, neanche a farlo apposta, però un professore di educazione tecnica, neanche musicale, che era molto più acculturato di quello di musica, era un appassionato di, veramente di musica a 360 gradi, ma l'aveva fatto ascoltare lui. E mi sono innamorato di questo brano, anche se mi sembrerà stranissimo, però pensate come Kubrick, la genialità di Kubrick, che è andato a prendere un brano di un autore, non certo, non stiamo parlando di autori altisonanti come Beethoven, Mozart, cioè lì è un autore che è diventato famoso, ma famoso però per chi frequenta magari i concerti, i cartelloni, gli auditorium dove vengono eseguite anche le sue musiche, anche non solo questa. Scusi, ho un dubbio, il valzer di Shostakovich. Era in programma da eseguire, ma purtroppo abbiamo veramente sforato parecchio. Mi spiace perché sarebbe quello di Shostakovich, è inserito in una suite che si chiama Jazz Suite. Ma solo un accenno, perché dovrei scappare anch'io. Mi spiace per quello. Beh, lei lo conoscerà chiaramente se l'ha citato, ma è un brano praticamente sui generis, per essere di Shostakovich, che era un autore russo, sottoposto al vaglio sempre della commissione di una commissione di, non per forza di musicisti, ecco, stavo dicendo generata, no, non mi viene la parola, comunque una commissione creata, ecco, dal regime. Eppure lui ha composto questa Jazz Suite, l'ha chiamata così, e questo valzer è diventato famosissimo, tanto che Kubrick nel suo ultimo film, che è Eyes Wide Shut, la utilizza all'inizio e alla fine del film. Possiamo chiudere in bellezza. ve lo accenniamo perché veramente mi dovete scusare, ma anch'io devo poi scappare. Ok, da lì.